La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua a questo penultimo passaggio prenatalizio della Rosa Purpurea per lanciare quella che è appunto la penultima ondata di film che inonderanno le sale nel Natale. Ne parleremo diffusamente, è una settimana da cinepanettone, lo diciamo subito, e quindi cercheremo di affrontare insieme i film che comunque in qualche modo afferiscono a questo genere, ma non solo, fortunatamente direi, non solo negli ultimi anni anche il Natale ha le sue stelle, diciamo così, che brillano nel firmamento del cinema d'autore di qualità, senza dimenticare ovviamente che è la settimana in cui arriva nelle sale Rogue One e Star Wars Story, che solo in questa seconda parte del titolo si porta dietro un'eredità particolarmente importante, un film che sta dividendo, quindi ne parleremo diffusamente. Come sempre non mancheranno le interviste, non mancheranno i giochi con noi, e quindi il nostro regalo di Natale sarà davvero un DVD game molto molto speciale. Quindi segnatevi già il nostro indirizzo di posta elettronica, la rosa purpurea @radio24.it, e state pronti perché c'è da vincere qualcosa di importante. Allora, andiamo con ordine. Come sempre la Rosa Purpurea si propone un obiettivo principale, quello di dirvi dove spendere i vostri 8, 9 euro, 10 euro, a seconda che il film sia in 3D o no, se volete ridere, se volete riflettere, se volete piangere o se non volete almeno buttarli via. Questo è il nostro scopo, e cominciamo con un film che sicuramente non vi fa buttare via i soldi, perché è un film che ha rilanciato alla grande, in termini assoluti, planetari direi, un'attrice la cui popolarità era già indiscussa. Stiamo parlando di Sonia Braga, chi non ha più proprio 20 anni se la ricorderà negli anni 70, 80, attrice in tante telenovelas, quelle che seguivamo noi ragazzini, le nostre mamme magari un po' di più, sulle reti private italiane che arrivavano dal Brasile, poi però anche nei panni di un personaggio che le ha dato la celebrità a livello mondiale, come Donna Flor, la protagonista del film di Barreto, e adesso la ritroviamo 65enne, splendida 65enne, in un film che si intitola Aquarius, che racconta e riflette il Brasile di oggi, le speculazioni edilizie. Infatti Aquarius è proprio il nome di un palazzo, il palazzo in cui questa donna è vissuta e dal quale in tutti i modi vuol cercare di non andar via. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Sei una vecchia testarda e allo stesso tempo una bambina. Ridete! Siamo venuti per parlarle riguardo all'acquisto del suo appartamento. Non voglio vendere. La definizione di vecchia testarda e bambina insieme non dispiace alla 65enne Clara. Sa quanti anni ha, ma sa anche che il suo spirito libero non si può domare. Clara non può fare a meno di esprimere se stessa e le convinzioni con cui ha vissuto, incarnate dal luogo in cui ha vissuto, la casa sulla spiaggia di Recife, che non vuole lasciare, nonostante tutti le dicano di farlo, figli compresi. Non credi che la cosa ti stressi? No. Direi che sono incazzata. Credo che una persona come lei debba vivere in un edificio più sicuro. Gliel'ho già detto e glielo ripeto. Me ne andrò da qui solo da morto. La casa, tappezzata di dischi in vinile, lei faceva la critica musicale, è Clara, ed è anche il Brasile intero, fiero e indipendente, ma mangiato dal denaro. Di quell'ultimo palazzo rimasto si vuol fare un grattacielo. Clara dice no e combatte la sua nuova battaglia. Lo fa con il volto, i gesti e la passione di Sonia Braga, che è gran parte della forza e della bellezza di questa pellicola. La prende in mano e la porta a raccontare appunto la battaglia di tutto un paese per mantenere la sua storia. Es mi corazón un escenario. Da Gilberto Gil al Queen, passando per Roberto Carlos, c'è un mondo di musica nella vita di Clara che si ribalta nel film. Musica tutta scelta dal regista, che Blair Mendoza figlio. I think there is a song for every moment in life. Penso che ci sia una canzone per ogni momento della vita, soprattutto se si ama la musica pop. Penso anche che ci sia un film per ogni momento della vita. Quando mi accade qualcosa ho spesso la sensazione di rimando a un film. Nel mio film la musica è un personaggio. Non è solo musica. Mi piace molto che le persone si identifichino con questa idea. Molti sono colpiti dalle influenze culturali e musicali che sono forti nella vita. Many people are sensitive to artistic and cultural influences. Ha scritto il film con in mente già Sonia Braga come protagonista. She was my first choice Once I understood that I would need a professional an actress. È stata la mia prima scelta quando ho capito che doveva essere un'attrice professionista a fare questo ruolo. La mia prima idea era usare una donna comune, magari trovata al supermarket, che è un'idiozia vista adesso. Avevo evidentemente bisogno di una professionista per un personaggio così complesso e sfaccettato. Dopo averlo capito, Sonia è diventata la prima scelta. La sua è anche una denuncia evidente di quello che è il Brasile oggi. There is a lack of respect for history. Manca il rispetto per la storia e la preservazione. L'edificio in cui abbiamo girato è l'ultimo antico rimasto lungo la spiaggia di Recife. Decine sono stati distrutti negli ultimi 30 anni. Tutti edifici degli anni 30 e 40 che non ci sono più. È il mercato, l'economia che comanda. A me non piace e il mio film racconta di una persona che dice no al mercato. And that's what the film is about. Somebody who says no to the market. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Aquarius, con tanto anche, avete sentito, di contributo dei protagonisti. Diamo un'occhiata a come sono partite le cose nel box office italiano, proprio per prepararci alla prossima parte della trasmissione. Dicevo appunto di Rogue One, ma anche Miss Peregrine è un altro blockbuster che è arrivato nelle nostre sale. Ebbene, chiaramente sono i due film più visti nei primi giorni di programmazione, ma c'è ancora tutto il weekend. Fra poco ne parliamo di Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La rosa purpurea. Come hai? Aria, è la mia specialità. Ti mostrerò il resto, ma devi promettere di non scappare via. Jay, che puntualissimo. Miss Peregrine, piacere di conoscerti. È invisibile. Certo. Nel linguaggio comune siamo conosciuti come speciali. E sono i ragazzi speciali della casa di Miss Peregrine, sono il campo di gioco preferito di un regista come Tim Burton, che quando vede noir, quando vede mistero e anche molto spesso quando vede un romanzo di crescita, di formazione, beh, insomma, ci si tuffa a capofitto. Lo fa anche questa volta con il cast che va da Eva Green a Samuel Jackson, da Terence Stamp a Judi Dench, tanto per fare alcuni nomi, e che racconta la storia di un ragazzino, appunto Jake, che riceve dal nonno una sorta di eredità particolare, un mistero che attraversa il tempo e la storia, in un certo senso. E questo mistero, questo sentiero, porta dritto dritto in questa casa per bambini speciali, cioè dotati di poteri speciali, di Miss Peregrine. Non è sicuramente una casa di supereroi, ma è una casa di piccoli eroi, potremmo dire. Boris Sollazzo, in collegamento con noi. Ciao, Boris. Ciao Franco. Allora, un Tim Burton, come dicevo, con le mani proprio nella sua marmellata, in questo caso, no? Se le sporca poco, però il problema forse è proprio quello: si trova di fronte una storia che non a caso 20th Century Fox gli consegna in produzione, cioè gli dice questa è roba per te, falla, e lui forse si adagia un po' troppo su questo immaginario di questo romanzo young adult che appunto si fonda su questo immagine, su questo immaginario naturalmente dark, di queste foto in bianco e nero, di questa storia molto particolare che mischia fantasy e appunto un immaginario più oscuro alla Tim Burton. Problema però grosso è che probabilmente si sente così a casa che diventa pigro. Tra l'altro la pigrizia è non solo un sostantivo che tiro fuori io come critico, ma che è uscito fuori da molti critici americani, perché l'impressione è proprio di un Tim Burton che si accontenta sempre delle solite inquadrature, sempre della solita sceneggiatura, addirittura delle stesse facce, perché se guardate El Purnell di fatto è una Winona Ryder o una Cristina Ricci rivista e corretta, anzi più corretta delle altre due. E il film va su questa falsa riga in maniera abbastanza inquietante, perché ci si ravvede lo stesso tipo di pigrizia che c'era stato in Alice in Wonderland, in cui lui pensava che sostanzialmente un adattamento bartoniano di un grande classico in quel caso potesse bastare per rendere il tutto un capolavoro. Mi esce un film secondo me senza anima, con un pathos che non riesce mai a crescere, con questi piccoli supereroi che sembrano dei piccoli X-Men un po' più buffi, e con i piccoli stereotipi bartoniani che provano a tenere in piedi il film. Volendo fare una battuta, sono stati molto più bravi in Italia quelli del marketing a portare avanti la promozione di Miss Peregrine, prendendo Bebe Vio come testimone intellettuale del film, che Burton stesso a raccontare questo film. E allora, questo per quanto concerne Miss Peregrine, il ritorno di Tim Burton, che poi è sempre un autore che ha ovviamente il suo pubblico, ma che deve competere in questa fase natalizia, anche questa scelta chiaramente ha i suoi rischi, con una condivisione del pubblico, anzi direi un assorbimento del pubblico su alti lati, e fra poco uno di questi lati, anzi il lato più grande, quello oscuro della forza, lo incontreremo con Rogue One. Prima però giochiamo insieme. Vi dicevo, un gioco speciale, perché ci stiamo avvicinando a Natale, un certo pregio, e dovete stare molto attenti ai particolari, a partire dall'individuare questo film. Siamo venuti a prendere un amico, arrivato col treno. Ma non è arrivato nessuno, soltanto un paio di casse e una bara. Il nostro amico. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scrivetecelo alla rosapurpure@radio24.it, titolo per intero, e state attenti questa volta per assicurarvi i due pezzi, li chiamo così, che sono a disposizione del nostro pubblico. Dovrete indovinare anche la seconda traccia, non basta indovinare solo una volta, bisogna indovinarle tutte e due, essere molto precisi nel titolo, e allora fra poco ascolteremo la seconda traccia misteriosa. Tuffiamoci in atmosfera Star Wars Story con Rogue One, che non è il nuovo capitolo della saga, ma è invece qualcosa che gli sta in quell'universo, no? Il famoso universo espanso. Ascoltiamo la clip. Abbiamo una missione per te. Lo faremo. Che la forza sia con noi. Espanso fino a un certo punto, nel senso che, come avete sentito, ci sono almeno tre o quattro, ne abbiamo sentiti, di riferimenti chiari ed evidenti all'universo vero, quello di Star Wars, dall'enfisema di Darth Vader alla marcia imperiale, a che la forza sia con voi, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, qui lo dico perché questo è un po' lo snodo probabilmente critico di questo film, ma ne parliamo fra poco. Prima la storia, quella della figlia di un ingegnere, di uno scienziato ribelle però, che era stato costretto dall'impero a costruire quella che sarebbe diventata l'arma letale per eccellenza, cioè la morte nera, e che ha cercato in tutti i modi di dimenticare il padre dal quale era stata portata via con la forza. Dopo 15 anni la ritroviamo grande, giovane, anche bella e molto molto determinata a una ribellione che possa portare, diciamo così, allo squagliamento dell'efficacia di questa morte nera. Rogue One, come dice il titolo correttamente, è una storia di Star Wars, è una storia di quel mondo, è una storia di ribellione, di rivoluzione, ma è una storia che appartiene a quel mondo, e lo fa, come dire, giocando molto col pubblico rispetto a questa appartenenza. Da una parte c'è chi l'ha definito immediatamente il più bel film della zona Star Wars dopo l'impero colpisce ancora, addirittura, mi sembra molto impegnativo. Dall'altra parte c'è chi dice sì, bel giocattolone, un po' fracassone, con qualche passaggio a vuoto, però tutto sommato assolutamente ben fatto, divertente, che però non ha quell'epica, non ha quel respiro, tranne quello di Darth Vader, non ha quella profondità. Forse sono vere tutte e due le cose, Boris, tu da che parte ti schieri? Io sono dalla parte del siamo vicini all'Impero colpisce ancora. L'Impero colpisce ancora, secondo me, è il capolavoro di Guerre Stellari, il film cardine su cui si fonda la mitologia, perché riesce ad essere un grande film d'autore. Qui non siamo dalle parti di quel film d'autore, questo sia chiaro, ma c'è una rivisitazione, un modo diverso di vedere Guerre Stellari, anche moderno, laico, che però ne sposa completamente lo spirito, cioè siamo di fronte alla possibilità di una nuova epica, quindi io sono assolutamente entusiasta del risultato, anche perché non era scontato che Guerre Stellari riuscisse ad essere raccontato in questa maniera. Intanto chiariamo un equivoco: Star Wars Anthology è una trilogia di spin-off. Questo uno spin-off non lo è sicuramente, perché si inserisce nella continuity tra il terzo e il quarto capitolo, e potremmo definirlo un capitolo 4 meno un quarto, perché sostanzialmente è proprio a un passo dalle basi da cui si parte per la nuova speranza, che è il primo capitolo. Il primo capitolo che abbiamo visto al cinema è il quarto della serie, perché come sappiamo la cronologia di Star Wars ha bisogno di vari dottorati per essere spiegata. E Rogue One ha queste grandi doti, ha un cast molto ben pensato, omogeneo e molto funzionale, con il segreto di aver preso Felicity Jones, molto bella, ma anche abbastanza antipatica, anche abbastanza respingente, come lo era in fondo Mark Hamill, che era un eroe che aveva bisogno di un contraltare quasi comico come Han Solo per poter andare avanti. In questo caso invece è più larga la platea di chi cerca l'ironia. C'è ancora tutto il mito della tragedia greca, quindi il ritorno dell'orfano, quindi l'epica dell'eroe solitario e via dicendo, ma c'è molto più laicismo. In questo Guerre Stellari non c'è la forza, noi non la vediamo praticamente mai la forza, se non forse in quello che crediamo di essere un cavaliere Jedi, ma non ne siamo sicuri. Non ci sono cavalieri Jedi, la spada laser compare tardissimo e per pochissimo tempo, cioè tutto ciò fa parte dell'iconografia classica di Star Wars qui non c'è, e questo ha creato un ringiovanimento straordinario, e anche la capacità finalmente di non cercare il binomio, ma anche la diarchia bene male, ma di unirlo all'interno dello stesso film. Cosa voglio dire? In passato Anakin Skywalker, Darth Vader, era il buono che era diventato cattivo, ma era ben diviso. Qui abbiamo un'alleanza ribelle che è sì una forza di liberazione, ma sono anche dei terroristi. Diego Luna fa un paio di azioni moralmente discutibili, e questa è una novità per Guerre Stellari, e dall'altra parte c'è un governo, un impero che cerca la pace attraverso il terrore, molto simile a quello che sentiamo nella politica attuale. Quindi è uno Star Wars straordinariamente moderno, ma con un'estetica di un grande regista come Gareth Edwards, io vi consiglio Godzilla, ma ancora di più Monsters, che riesce a recuperare lo spirito anche esteticamente della prima trilogia, che poi è la seconda, ma non rientriamo in questo discorso. Quindi dall'aerodinamica dei velivoli fino agli effetti speciali di cui Gareth Edwards è esperto, sono calibrati su quell'immaginario lì. Quindi molto più di J.J. Abrams ci restituisce il Guerre Stellari delle origini. J.J. Abrams citava in maniera pacchiana, lui invece rivisita. E devo dire, un consiglio che posso dare, ed è l'ultimo consiglio che posso dare, al di là del mio entusiasmo, se non avete mai visto Guerre Stellari, il mio consiglio è iniziare proprio da Rogue One, perché questo prologo del quarto capitolo è il modo migliore per entrare senza avere spoiler sul futuro e poi andare avanti. Quindi non ci sono più scuse neanche per quelli che non sono guerre stellarofili, per non vedere i film, perché ormai sono tanti. Si può iniziare da Rogue One. Se l'impero ha questo genere di potenza, che possibilità ci resta? Che possibilità, lei si chiede? Io mi chiedo che scelta. Fuggire, nascondersi, implorare pietà, smobilitare le forze. Piegatevi a un nemico così malvagio e così potente e condannerete la galassia a un'eternità di sottomissione. Il tempo di combattere è ora. E allora, questa è un'altra clip. Io concordo con il parere di Boris in parte, nel senso che non è del tutto vero che non ci siano simboli dell'iconografia di Star Wars, appunto da Darth Vader alle musiche che Michael Giacchino poi recupera, ma delle quali fa sentire ampi stralci di quelli che sono i temi originali, addirittura la comparsa della principessa Leia. Insomma, ci sono tante cose che fanno parte invece proprio di questo. Chiaramente è giusto che fosse così. Trovo che la prima parte, soprattutto la prima mezz'ora, faccia un attimino guardare verso l'orologio più di una volta. Trovo che i combattimenti siano veramente al limite dell'eccessivo. Trovo che sia veramente un ottimo prodotto, molto molto godibile, che terrà fuori, taglierà fuori, in modo di vedere, tutta la parte più piccola dei bambini, dell'infanzia, perché è un film che porta da un'altra parte. E trovo che l'emozione che ho provato nell'ultima scena del tanto o mediamente vituperato settimo episodio, quella scena finale sulla montagna, quella consegna della spada, abbia dentro un respiro, un'emozione che qui si sognano dall'inizio alla fine. Però, come vi avevo detto, questo film ha abbastanza diviso e quindi andatelo a vedere, perché così ci direte anche la vostra, magari sulla nostra pagina Facebook. Linea alla regia, torniamo fra poco con tutto un blocco dedicato ai cinepanettoni, forse lì non ci divide nessuno. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Io sono qui per raccontarvele, sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20.30. Naturalmente qui su Radio 24. La rosa purpurea. Cambiamo decisamente ambito, genere, anche respiro storico per la buffata di panettone cinematografico natalizio, perché solo questa settimana sono arrivate nelle sale tre pellicole che a vario titolo, chi in maniera un po' più diretta come può essere Natale a Londra, chi un po' più alla larga come magari Poveri Marichi o Aldo, Giovanni e Giacomo con Fuga da Roma Park, comunque vanno a condividersi un pubblico, a contendersi direi un pubblico, e tra l'altro lo fanno con alcuni film che sono già fuori nelle sale, e c'è chiaramente il rischio, anzi direi quasi la certezza, di una cannibalizzazione. Di questo abbiamo parlato anche già nelle scorse puntate, ma adesso insomma andiamo ad analizzarli per capire, Boris, se tra appunto Aldo, Giovanni e Giacomo da una parte, Natale a Londra con tutto il suo supercast diretto da Wolfgang De Biasi dall'altra, e Poveri Maricchi, ci sia ecco, ci sia una fish da puntare su uno dei tre film. Guarda, faccio iniziare te, dimmi da quale film partiamo con una clip. Guarda, non ho assolutamente nessun dubbio nel dire Natale a Londra, che mi sembra il più film, il più commedia, e che avrebbe più possibilità anche fuori dal Natale. E allora, ascolta, Boris, facciamo così, sentiamo la clip di Natale a Londra e ne parliamo. Oh, ma quanto ci mettono sti due a prepararci? Il tempo che ci vuole. Noi siamo i cani della regina, non due cani qualunque. E questo è vero, ma qua fuori ci saranno tutti gli altri attori del film da preparare. Vorrà dire che aspetteranno. Natale a Londra, Dio salvi la regina, avete sentito dei cani parlanti, insomma il tema affrontato dal cast con Lillo e Greg, Nino Frassica, Paolo Ruffini, Uccio De Santis eccetera eccetera è quello appunto di due fratelli che arrivano appunto con un'idea che è quella di fare uno scherzetto, così, quello di rapire i preziosissimi cani della regina a Buckingham Palace. Un film girato prima della Brexit, ma che in extremis è stato anche un po' adattato con qualche battuta su questo fatto storico. Perché, Boris, allora la fish la mettiamo su questo? Perché è un film che secondo me compie definitivamente la rivoluzione copernicana nell'universo film Mauro. Era iniziata con Colpi di fulmine e Colpi di fortuna, quando ancora c'era Neri Parenti, Christian De Sica e Wolfgang De Biasi, era solo sceneggiatore, e si compie adesso la fine della trilogia, molto meno nobile, intendiamoci, dei Natali De Biasiani, Lillo Greghiani, un Natale stupefacente, Natale col boss e adesso appunto Natale a Londra, in cui si è scelta una strada chiara, che è quella della commedia all'americana, della commedia corale, della commedia anche molto citazionista, qua Ratatouille, Rocky, Ocean's Eleven, c'è di tutto sostanzialmente in questo immaginario, perché Lillo e Greg davanti alla macchina da presa hanno assunto una consapevolezza come coppia e anche come singolo molto più forte. Greg si diverte a fare un doppio molto molto divertente e anche tendendo a citare grandi classici della commedia. Lillo, come al solito, riesce ad avere un respiro anche più ampio, e qui tra l'altro si divertono a fare un po' i Bud Spencer e Terence Hill, che è un tipo di commedia che non si recuperava da tempo dalle nostre parti. È scritta bene, non è scritta sciatta come purtroppo gli altri tre cinepanettoni, perché ci metto anche Boldi. Le battute, anche quando sono stupide, faccio l'esempio della pistola con il pagamento della carta di credito incorporato, che viene definito postola, che è chiaramente una freddura, ma una freddura pensata. Non c'è più quello che potremmo definire il peto style, no? Che viene incarnato da Enzo Salvi in Natale al Sud. E quindi, certo, non ci troviamo di fronte a un capolavoro, ma ci troviamo di fronte alla volontà di fare una commedia dignitosa nel contenuto e nell'estetica, curata, e francamente in questo caso è anche la più divertente delle ultime tre, cioè si ride abbastanza spesso, non a crepapelle magari, ma si ride. E allora sentiamo uno dei protagonisti di questo film raccontarci un po' l'ambiente alla sua maniera, l'ambiente del set. Alla Rosa Purpurea c'è Nino Frassica. Il film si intitola Natale a Londra, si salvi la regina, o qualcuno salvi la regina. Il titolo cambia di giorno in giorno, alcuni manifesti scritti in un modo, in un altro modo. Io ritorno a fare i film di Natale perché avevo un contratto quarantennale con Aurelio De Laurentiis e ho iniziato nel 91 e però ancora non avevo completato il corso, e quindi sto facendo il prossimo, vediamo quando lo facciamo. Comunque in 40 anni devo fare 10 film. Qual è il tuo ruolo dentro questo film? Io faccio un malavitoso che si trasferisce a Londra, ha un ristorante, una figlia che è la protagonista femminile, sta una figlia pazzesca, è un bel personaggio quello della figlia, infatti io volevo fare la figlia, dico la verità, io volevo fare la parte della figlia. L'hanno preso per i baffi forse? No, mi hanno preso perché questa è più brava di me per come io faccio la parte della figlia. Cioè nel provino mi ha battuto e quindi lo fa lei. E io faccio il padre ed è un malavitoso che poi, quando arriveranno da Roma Lillo e Greg, ci cambieranno la vita, perché dovremo. Io avevo smesso di fare malavitoso, invece con l'arrivo di Lillo e Greg succederanno delle cose, sarò coinvolto e tornerò a fare la malavita anziché la dolce vita. Nino Frassica racconta così l'esperienza sul set di Natale a Londra. Boris, un minuto invece per spiegare un po' Fuga da Reuma Park, spiegare perché film con Aldo Giovanni e Giacomo, uno pensa già a una cosa comica, eccetera. Io ho una mia idea su questo film, cioè che abbiano cercato Aldo Giovanni e Giacomo una strada anche molto rischiosa, non vincendo a mio modo di vedere la scommessa, anzi probabilmente perdendola, ma va forse premiato il coraggio, cioè di fare un film quando si è, come loro, molto molto affermati per un determinato tipo di comicità, di cambiare completamente registro, di fare un film di fatto su se stessi con una forte radice matrice surreale. E la comicità surreale non è semplice per il pubblico, non è semplice neanche per chi la fa molto spesso, però insomma, ecco, mi sembra un tentativo coraggioso. Sì, non fa parte nemmeno della nostra grammatica di spettatori italiani, che insomma la comicità surreale la respingiamo abbastanza. Sono abbastanza d'accordo con te sul coraggio, anche forse emotivo, di fare un film del genere, perché il film, poi lo capirete quando lo vedrete, è sostanzialmente il funerale dell'immaginario di Aldo Giovanni e Giacomo, che viene poi recuperato attraverso insomma una serie di sketch, purtroppo senza nessuna alchimia, che fanno parte del loro passato e che, in cui loro addirittura si rivedono. E il problema è che probabilmente il film è più autobiografico di quello che loro pensavano, perché insomma dopo 25 anni probabilmente siamo di fronte a un declino che sembrava essersi fermato con la banda dei Babbi Natali e Ricco il Povero e il Maggiordomo, che comunque sembravano mostrare una timida risalita, e siamo arrivati invece vicino a un esaurimento della loro vis comica, della loro forza comica, che qui è anche molto evidente, perché a mio parere il tentativo di fare una comicità surreale sta anche nel fatto che il loro linguaggio loro non lo sanno più parlare, probabilmente non lo sentono probabilmente neanche più loro, c'è meno fisicità, c'è meno potenza creativa. Il brutto è che potremmo ricordarlo forse come il loro film testamento, e probabilmente non volevano, voleva essere autoironico e è finito per essere autobiografico. Assolutamente, un film dove, cioè, che diventa il bel tentativo, l'interessante tentativo, il coraggioso tentativo di, come hai detto tu, di fare un cinema quasi black sulla loro pelle, ma dove poi in certi momenti la cosa migliore sono gli sketch del passato, e allora la parte di oggi, quella che non si riesce a portare a un certo tipo di quota rispetto a quello che è un passato veramente molto ingombrante, perché questi sono stati dei maghi della risata in tutti i modi. Comunque, questo è un po' il pane, l'abbiamo detto, anche Poveri ma ricchi ovviamente è nelle sale cinematografiche, con, lo ricordiamo proprio per onore di cronaca, con la regia di Fausto Brizzi e soprattutto Christian De Sica, l'altro abitué del cinepanettone, nel cast. Però insomma, come diceva anche Boris, se ci aggiungiamo Boldi c'è veramente troppa carne al fuoco in questo genere, e allora noi abbiamo cercato di darvi un po' una torcia per orientarvi. Se vi piace questo genere, proprio a Natale non ne potete fare a meno. Invece fra poco, dopo la viabilità, torneremo a parlare di grande cinema con una scheggia d'autore italiana che vale davvero la pena andare a vedere. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presento La Rosa Purpurea. Eccoci qua, siamo nella parte conclusiva della Rosa Purpurea, quella che fra un po' vi ricorderà anche tutto il cinema da vedere in casa in questo periodo prenatalizio. Però, dicevo, c'è spazio per un piccolo film che però sta avendo davvero grandi consensi di critica e anche di pubblico, cioè chi lo vede, chi riesce a vederlo ne è davvero estasiato. Il film è distribuito in una decina di sale in tutta Italia, però nelle città principali c'è, e si intitola Naples 44. We set out to explore a little of our immediate environment. Una storia che già dal titolo tradisce una collocazione storica molto molto precisa, quella appunto dello sbarco delle forze inglesi, delle forze alleate a Salerno e alla liberazione di Napoli, appunto Napoli 44. Il film è diretto da Francesco Patierno e ha due versioni, una inglese in cui la voce narrante è quella di Benedict Cumberbatch, uno degli attori emergenti più interessanti e anche ormai più ammirati del panorama internazionale. In quella italiana la voce è di Adriano Giannini. Boris, centinaia di immagini dell'archivio dell'Istituto Luce per ricostruire un altro pezzo di quella storia che, come dire, si è visto in tanti film del passato, del passato ormai quasi remoto, dobbiamo dire, del nostro cinema, ma che da un po' non veniva frequentato, e che ci sia coinvolto anche un nome così importante, così altisonante del cinema internazionale come quello di Cumberbatch. Sì, assolutamente. Intanto l'archivio, oltre ad essere Lucio, anche Getty, Patè, insomma c'è tanta, tanta carne al fuoco. Napoli 44 è il 1944, lo sbarco degli alleati a Salerno, gli alleati a Napoli, il periodo forse più duro della guerra, soprattutto per quella città, siamo dalle parti appunto del cinema di Nanni Loi e via dicendo, però Paterno ha l'intuizione di raccontarla come è andata veramente, cioè senza eroismi, senza epica, con questo Norman Lewis, Napoli 44 è il titolo del diario che questo ufficiale dell'esercito inglese scrive durante la sua permanenza a Napoli, e Norman Lewis ne scrive con grande empatia, con grande amore, dice a un certo punto addirittura se rinascessi vorrei rinascere a Napoli, ma anche con la precisione del militare, anzi quasi dell'entomologo, come se stesse guardando degli insetti e non degli esseri umani. Ne esce fuori un quadro assolutamente imprevisto, imprevedibile di Napoli, molto potente umanamente, persino nella sua freddezza, e con un Cumberbatch, io vi consiglio di cercarvelo in inglese perché davvero la sua voce fuori campo è qualcosa di straordinario, che gli dà questo tono ambiguo e potente che fa molto nel film. Paterno ha una sensibilità per l'immagine, questo l'ha sempre dimostrato, straordinaria. Il resto, ora in questo caso ci vuole, è storia vera, non la storia scritta dai vincitori, ma la storia scritta dalla gente. E il film è davvero molto speciale anche nella versione italiana con Adriano Giannini, che si impegna ovviamente non a livello di Cumberbatch, ma comunque fa un'ottima figura. E allora Boris, un saluto a te e ci sentiamo per la puntata della vigilia di Natale la prossima settimana. Sì Franco, prima di salutare ci tengo a mandare l'ultimo saluto a Maria Pia Fusco, una collega straordinaria che è venuta a mancare proprio questa settimana, ci ha raccontato Mastroianni, Kubrick e tanti altri come nessun altro, e mancherà tanto sia a chi la leggeva sia a chi lavorava con lei. Quindi oggi il mio alla prossima settimana buon cinema lo dedico a lei. Hai fatto bene a ricordarlo, è stata una settimana difficile anche per noi della comunità di Radio 24 e io voglio dire ciao Francesca anche in questa occasione. Grazie Boris, noi andiamo avanti perché vi abbiamo lasciato per strada la seconda clip del film misterioso di oggi, sentiamo. E come conquistiamo la cittadella? Supponendo che ci arriviamo vivi. Se blocchiamo il passo, non è difficile. Lui non ha che cuccioli di guerra e figli di guerra malati. E allora, vi avevo detto, dovete dirci tutti e due i film, quindi se anche avete partecipato alla prima clip, partecipate anche a questa seconda, perché dovete scriverci il titolo anche di questo film, il titolo preciso, il vostro indirizzo, e poi chi avrà indovinato i due film che sono ovviamente collegati, potrà vincere uno splendido cofanetto di questo film in Blu-ray, film che segnaleremo fra pochissimi minuti, vi diciamo il titolo, chiaramente i vincitori vi diciamo la prossima settimana. Andiamo avanti, dovremmo avere già il collegamento Giulio San Giorgio da Film TV e allora ascoltiamo invece il game della settimana scorsa. Ha una 44 Magnum. È un'arma che costa. Ah, ce l'ho i soldi. Brutta bestia, sa. Ti fermo una macchina a 100 metri. Con una pallottola buca il motore. Taxi Driver, lo hanno indovinato in tanti, avete partecipato in tantissimi. I più veloci sono stati Francesco Siboldi di Diano Arentino, provincia di Imperia, e Arturo Paradiso di Camairago, provincia di Lodi. Sono i nostri due ascoltatori che vincono questa nuova edizione di Taxi Driver che ci facciamo raccontare proprio da Giulio. Ciao! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, mentre aspettiamo trepidanti, direi, Silence, uno dei film più attesi del nuovo anno, ripartiamo proprio da un classico di Scorsese, Palmarolo del 76, che è la storia di un reduce dal Vietnam che diventa una bomba pronta a esplodere nella New York degli anni 70. Una sinfonia urbana allucinata, deformata dallo sguardo di un uomo veramente alienato dal mondo, malato, inconciliabile con la società sua contemporanea, eppure capace di un comportamento etico, di un codice morale che gli altri hanno dimenticato. Insomma, un grande esempio di espressionismo moderno e un capolavoro del cinema americano degli anni 70 in un cofanetto a due dischi che arricchisce il bel riversamento 4K del 2011 curato dallo stesso Scorsese con un tripudio di extra, quasi tre ore di contenuti speciali che vanno dalla sceneggiatura interattiva al commento audio del regista e dello sceneggiatore Paul Schrader, dal documentario sulla realizzazione del film a un contenuto molto strano ma molto interessante che si chiama La New York di Travis, ovvero i cambiamenti di New York dal 1975 ad oggi per arrivare fino allo storyboard del film. Un Natale dolce nero potremmo definirlo, quello che abbiamo scelto in TV, nelle segnalazioni, perché cominciamo domenica 18 con un film che avrebbe forse meritato più attenzione nella sua uscita. Stiamo parlando di un film molto recente della cinematografia italiana che si titola Perez. Perez con il punto, perché col punto finale, perché si sa che i noir non permettono vie di fuga. È il secondo film di Edoardo De Angelis, dopo l'esordio La Custurizza, Mozzarella Stories, di cui abbiamo già parlato, e prima del bel Indivisibili. La storia di un avvocato che i giovani chiamerebbero sfigato e scelto da un feroce latitante della Camorra come difensore, chissà poi perché proprio lui. Un altro noir italiano che come Anime Nere, Suburra, sa parlare del paese, delle sue logiche, anche a chi non è italiano. Potenza del cinema di genere, perché se lo sai maneggiare bene, il noir, senza provincialismi né appiattimenti sugli stereotipi, diventa veramente un linguaggio universale. E allora l'appuntamento è su Iris alle 21 di domenica 18. Il martedì invece su TV 2000 alle 22.05 la parte, diciamo, dolce di questo Natale cinematografico in TV con uno dei capolavori di Ernest Lubitsch, Scrivimi fermo posta. Sì, è la storia di due commessi che hanno un'amorosa corrispondenza epistolare, ma nel mondo concreto pensano di non conoscersi. Si sbagliano, ma non lo sanno, e nella realtà bisticciano di continuo. Un gioco d'equivoci lieve e malinconico, che è un po' la regina della sophisticated comedy, sospesa tra ironia e tenerezza, schermaglie da screwball e un romanticismo dolente. È veramente uno dei grandi capolavori di Ernst Lubitsch, uno dei più grandi studiosi del regista, dice che forse è il suo film più bello e struggente, ed è un film assolutamente che non si dimentica, con tutta quella leggiadria sapiente di dialoghi e la capacità anche di dire delle cose del suo periodo, del suo tempo, come parlare della solitudine e della disoccupazione. È un film che tra l'altro è stato adattato ai tempi di internet a un classico contemporaneo che si intitola C'è posta per te. Assolutamente, C'è posta per te. Allora, martedì 19, scrivi in fermo posta su TV 2000 alle 22.05. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, però prima prendiamoci il tempo per ricordarvi il film con cui abbiamo giocato oggi, anzi i film con cui abbiamo giocato oggi, perché si trattava di Mad Max, il film diciamo originale, il primo, il capostipite, e poi invece del recente sequel che appartiene proprio invece alla scorsa stagione cinematografica, che arrivano insieme in un nuovo cofanetto di cui parleremo la prossima settimana e in cui sveleremo i vincitori del nostro game. Grazie per averci seguito, ci sentiamo sabato prossimo, un saluto da Franco D'Assisti.